Il Senato della Repubblica, come saprete, ha votato l'eliminazione dell'ergastolo dal nostro sistema penale. È un gesto in gran parte simbolico, nel senso che bisogna ancora vedere cosa succederà alla Camera, dove il rapporto favorevoli e contrari è diverso, e comunque il tetto massimo di carcerazione possibile resta attestato sui 33 anni, che è un po' di più di quanto gli ergastolani normalmente scontino con l'ordinamento vigente. Ma comunque è uno dei pochi gesti del nostro Parlamento di cui si possa riferire senza vergognarsi, e non solo perché adempie a un precetto abbastanza trascurato della nostra Costituzione, quello per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere all'educazione del condannato. Tanto è vero che persino un certo numero di senatori dell'opposizione non si è sentito di votare contro e alla votazione non si sono fatti vedere. Tuttavia, non tutti sono stati favorevoli, neanche nella maggioranza. Tra i contrari c'era addirittura il ministro della giustizia, che non ha mancato di farlo sapere. Ha spiegato in aula che l'abolizione dell'ergastolo proprio non possiamo permettercela, che quella pena è giusto che resti, almeno come ipotesi, per chiunque si accinga a offendere vilmente la libertà, in concreto per i colpevoli di stragi di mafia, di uccisione di minori e di servitori dello Stato, che è un punto di vista discutibile, specialmente perché ha la pretesa di considerare certe vittime più vittime di certe altre, ma in un paese in cui c'è ancora una quantità di imbecilli e di sadici che invocano la pena di morte, ce lo si può anche considerare legittimo. Solo che al Senato al Ministro ha dato torto, e ci sono buone possibilità che altrettanto presto tardi faccia la Camera, il che fa sorgere l'interessante problema di cosa debba fare adesso il professor Flick, ministro Guardia Sigilli, segretario di Stato alla Grazia e Giustizia. A quando mi è sembrato di capire, lui non ha intenzione di fare assolutamente niente. Lui al Senato ha dichiarato di parlare a titolo personale, anzi personalissimo. Ha espresso un'opinione come suo diritto e dovere, ma è pronto a rispettare l'autorità del Parlamento. Se anche la Camera darà un parere conforme, farà quanto si deve fare per ottemperare la nuova legge. E su questo, a quanto pare, sono stati d'accordo tutti. Salvo qualche mugugno isolato, nessuno sembra ritenere strano che un ministro sia in dissenso con la sua maggioranza su un'importante questione di principio. Anzi, una collega di governo del professor Flick ha dichiarato che, ergastolo a parte, in quel discorso c'era una quantità di cose condivisibili. L'esigenza di riformare questo, di trasformare quest'altro, di far sì che, di garantire che, di provvedere a... tutto nel futuro, naturalmente. Per ora, se c'è una proposta di riforma, lui è contrario. Anzi, si spende in senso contrario, si è preso il disturbo a presentarsi in Senato, anche se non era tenuto a farlo, perché senatore non è, e il decreto di legge non era d'iniziativa governativa. E se l'ha fatto avrà avuto i suoi motivi. Probabilmente voleva persuadere i membri della Camera Alta a votare in modo diverso da come poi hanno votato. E adesso mi spiace per voi, ma non può mica far finta di niente. I ministri, che se ne pensi, non sono al loro posto per esprimere opinioni personali. Al governo tocca il potere esecutivo, che è quello di fare eseguire delle cose stabilite da certi altri. E l'idea di un ministro che fa eseguire un provvedimento a cui lui è personalmente contrario, chissà perché a me non mi riesce a convincere. Non può che voler dire o che lui quel provvedimento intende eseguirlo in modo che sia meno efficace possibile, o che delle sue convinzioni personali non gliene frega assolutamente niente, che le pospone alla possibilità di esercitare sempre e comunque il suo potere. Qualcuno dovrebbe spiegargli che l'unica scelta che gli resta a questo punto è quella tra l'inettitudine e la malafede, sempre a titolo personale, naturalmente. The pale horse.